Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere su intelligenza artificiale, cyber security, cloud e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una testa di cazzo internazionale. Stiamo parlando che non sei altro. Ma che dici? Cosa stai parlando? Una volta facevi il giornalista anziché insultare. Pagato da Assad. Allora io ti denuncio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Vedi Giuseppe, io vorrei scardinare Fabio Fazio. Lui mi deve mostrare come fa a essere indispensabile. La Maggioni come può permettersi di dire senza Fazio la RAI sarebbe crollata. La RAI sarebbe crollata. E che cazzo è sto Fazio? Sto Fazio è un rotto in culo. La RAI è mia. La RAI è più mia che di Fazio. La RAI è mia. Siete degli infami, siete delle merde, avete rotto il cazzo, volete far morire le Marche, volete far morire l'Italia, ma non ce la farete, non ce la farete, non ce la farete, non ce la farete, vaffanculo, Fazio 11 milioni e 200.000 calci nel culo, stronzi! Voglio di Savio, sindaco Fuccio. Fuccio a Rossai. Viene da fare uccidere il tuo Marco San Francesco. Fuccio. Per me la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca. Bravo. 92 minuti di applausi. Silenzio la vecchia! Naturalmente! Beh, amico mio, qua. con l'Austria! Terribile. Gli amici dell'Austria! Io tu sai i fratelli, che già quando sento... fratelli austriaci! No, voi corno. Sì che avete i coglioni! Ve ne fottete di quello che viene dall'Europa, la collaborazione, gli altri stati, eccetera. Il ministro della difesa austriaco, amico mio, ti vorrei abbracciare fortissimo. Ogni tanto mi state su coglioni, è vero, soprattutto quando state in Trentino, quelli del Trentino Alto Adige, anzi dell'Alto Adige. Soldati e corazzati per difendere la frontiera del Brennero. Magari non c'è nessuna emergenza, non io mi interessa. Io ti posso adesso. Dire questo. Io quando vedo la parola leggo la parola Austria. Sì, e sì, a questa sì, vedo sì, associata sì, la foto di un carro armato. Sì. Amico mio, sì. Io un po' di paura mi metto. Tu dici che pensi quando uno dice no, soldati e corazzati. Ho detto non voglio creare incidenti d'altra diplomatici parte, il tra signore... la libera Repubblica della no, Zanzara da... e il paese austriaco. Certo, e l'Austria. Già ci non sono voglio. Stati diversi incidenti diplomatici. Però già, ti già, dico già. Che benissimo ha fatto la Farnesina a richiamare subito l'ambasciatore austriaco. Ma quelle sono cazzate, dai. Perché su. Quando io vedo, leggo sì. la parola Austria, sì, Austria sì, beh, sì. e poi vedo contestualmente un carro armato, la parola corazzati, automaticamente mente, amico mio. Sì. Mi viene la pelle d'oca. Cioè, tu dici che l'Austria in qua... vogliamo no, ricordare... io ho detto una cosa chiarissima. Sì, vogliamo ricordare che il signore con i baffettini sì. nacque in Austria. Vogliamo ricordarlo che il signore con i baffettini, quel signore lì con i baffetti, è recentemente rievocato dal dottor Santoro, per esempio, no? Nacque in Austria. Dunque, secondo te l'Austria quasi per costituzione non dovrebbe avere nemmeno l'esercito, diciamo, da quello che mi... No, io hai detto una cosa molto molto giusta, gli stati non dovrebbero avere più esercito, un esercito europeo. Basta, ci stai sfracassando i coglioni due giorni i coglioni con questa storia sì. qua. Sì, mi arrivano messaggi anche di minacce, vergognoso, hai svenduto il paese. In realtà mi arrivano cose, in realtà non esiste il paese, esiste l'Europa. Ma quanto godi cominciate quando ti arrivano, quando ti minacciano, quanto godi? Dimmi la verità, sì, quanto no, godi? Molto, leggo, sei godi, maledetto, godi, mi fai godi. Schifo, ti ho visto l'altro comunque, giorno ragazzi, sette, sei pallido, sei brutto, però intanto mi hai visto, brutto maledetto. Allora, l'Austria, soldati e corazzati per difendere la frontiera del Brennero. Non mi interessa, fanno bene, perché fanno i cazzi loro, dunque fanno benissimo, terribile, benissimo. No, adesso è veramente una cosa terribile. Ma una che cosa terribile, totalmente antieuropea, è una cosa vergognosa. Allora, secondo uno dei fondatori del partito anti-islamista, che si chiama Cassinelli ed è un giornalista, il partito può prendere oltre il 15%. Tale Cassinelli. Sentiamo. Lei crede che l'Islam sia incompatibile con la democrazia? Gran parte dell'Islam, l'Islam attuale come è professato oggi, purtroppo sì. Cioè. Secondo lei quanto vale in Italia un partito anti-islamizzazione? Credo che oltre il 15% ci siamo. Secondo Boeri, che è il capo dell'INPS, cioè quello che governa le pensioni, vabbè, sai, è un modo di dire, è quello che governa le pensioni di tutti gli italiani, abbiamo bisogno degli immigrati, altrimenti certo. Il paese crolla. Chiude, il paese chiude già. Una classe dirigente all'altezza deve avere il coraggio di dire la verità agli italiani. Abbiamo bisogno degli immigrati per tenere in piedi il nostro sistema di protezione sociale. Oh ragazzi, adesso vi faccio sentire qualcosa di Adinolf, del mitico Adinolf, cioè dire Mario Adinolfi. No, ma rimaniamo un istante, perché non mandi soltanto questo per fino alle 20:50? Manda, cioè, la solo lezione di Boeri, dici? La lezione sì, sì. di Mandala Boeri. Mandala tutta, perché così la gente impara qualcosa. Ma non c'entra niente, dai, per me non... Dario Vergassola giustamente scrive, prima le invadono le frontiere, adesso le difendono, ma riferito agli austriaci, bravo Vergassola, bravo. Allora, torna Mario Adinolfi, torna a dire la sua Mario Adinolfi. Però non c'era tanto bisogno di Mario Adinolfi. Vabbè, ragazzi, ma c'è sempre, no? bisogno di Mario Adinolfi. È un libero bisogno. Pensatore, uno che dice la sua, è criticabile, però va benissimo. Senti, perché vuoi censurare le persone? No, va ho detto che Adinolfi. Se tu mi dici senti la nostalgia di qualcuno. Ma beh, no, sì, ma invece io sì, un po' di Adinolfi sì, delle sue polemiche sì. Allora, lui dice che i medici che vogliono uccidere, secondo lui, il ragazzino, come sapete, noi non abbiamo mai parlato perché è una vicenda molto complessa. In realtà io qualcosa da dire ce l'ho, Charlie, quel ragazzino là, no? E quelli che vogliono quello uccidere... Quello inglese, certo. Sì, quello inglese. Senti che dice. Oggi c'è una da parte, i medici che vogliono uccidere Charlie, quattro sentenze omogenee di quattro tribunali diversi che vogliono uccidere Charlie, di contro c'è il Papa, c'è l'amministrazione Trump, c'è il bambino Gesù e c'è il popolo italiano. La grandiosa speranza rappresentata dal popolo italiano. Allora, però non potete rompere i coglioni contro l'accanimento terapeutico, bisogna portare le persone in Svizzera e poi tutti sanno che questo bambino è condannato. Che ne sapete quanto sta soffrendo? Bravo, ti pure. Dicono di staccare la spina e voi vi accanite, perché dai, i genitori ovviamente lo vorrebbero vivo fino all'ultimo respiro, ma evidentemente senza le... No, ma risulta anche dal punto di vista neuronale, no, io ho letto anch'io tutta la vicenda, ragazzi, ovviamente. Cioè, ma che lo volete tenere in vita per che cosa? Per una specie di simulacro? Poverino. Cioè i medici hanno detto ha sofferto e sta soffrendo moltissimo, staccate la spina subito, non ha sofferto perché è un vegetale, ma staccate sono le due staccate cose. La spina subito, o uno ma si no, fida certo. di questi medici, oppure non è che il la Gran Bretagna è un paese di mostri. Bravo, cioè la Gran Bretagna, esatto, non è un paese di mostri. Bravissimo. Quell'ospedale non è un paese di aguzzini. Bravissimo. Cioè non è che le corti sono lì. No, certo. Però ti voglio dire una cosa in più, vecchio mio. La bufala più grande, ancora una volta l'ha detta Salvini, la Lega e i politici italiani e Beppe Grillo. Cioè? Perché subito hanno dato la colpa alla Corte di Strasburgo, che non c'entra dicendo un cazzo, l'Europa, caso, sì, che non c'entra un cazzo. No, non c'entra un cazzo. Dice, però, l'Europa vuole uccidere un bambino. Al di là della questione dell'Europa, senti questa cosa qua. L'ospedale Bambi Gesù. No, possiamo, no, dire questo e poi magari chiudere la trasmissione. Ma no, perché se chiudere? Tu ti voglio dire questo, se tu la chiudi anticipatamente, la gente riflette sulle ultime parole che abbiamo detto. No. Quindi riflettete sul fatto che sul fatto di Charlie l'Europa non c'entra nulla. Politici male informati ti hanno detto una cazzata. Se la chiudiamo qua, la gente si insospettisce. No, non possiamo chiudere. E va a vedere. Perché. Non possiamo, perché ti devo dire un'altra cosa. Ma lasci in sospeso, Giovanni, no, Benincasa, ma... la chiama la bomba sotto il tavolo. Ma chi se ne frega, cioè, va benissimo, dice, sì, d'accordo. Lui dice, tu entri, tu fai la tua trasmissione televisiva, a un certo punto entra uno in studio, mi dice, sì, mette sì, una valigetta sotto il tavolo e se ne va. Questo deve succedere, meraviglioso, si chiama la bomba sotto il tavolo. Allora. E uno non è che guarda la trasmissione per sentire i politici, ma scoppierà, non scoppierà, cosa c'è nella bomba? Cioè non gli interessa più il dibattito. Ecco, noi dobbiamo fare la stessa cosa, la bomba sotto il tavolo, cioè chiudere la trasmissione e lasciare tutto in sospeso. La gente dice, ma che è successo? Torneranno? Non torneranno? No, non torniamo, siamo pagati uguali, forse torniamo domani. Allora, sentite questa, l'ospedale Bambi Gesù, no? Si sbraccia adesso per accogliere questo Charlie, il ragazzino, il bambino. Sì. Dicendo non c'è cura neppure qui, ma accoglienza e amore. Ma che cazzo vuol dire? Perché accoglienza e amore non c'è in Gran Bretagna? Non c'è in Gran Bretagna. È tutta un'operazione mediatica pure di Trump, che non sa un cazzo, bisogna dirlo, non sa un cazzo di questo ragazzino, e dice posso intervenire cosa? Fa il presidente degli Stati Uniti. Che cazzo te ne frega di occuparti di Charlie? E lo dico io che sono super trampiano. Ma sì, lascia perdere Trump, no? Non rompere i coglioni su una cosa che riguarda i tribunali inglesi e una famiglia e cosa. Arriva Trump, il bambin Gesù, il Vaticano, ma non rompete i coglioni. Poi siete a favore della maggior parte degli italiani sono a favore dell'eutanasia, andare in Svizzera, eccetera. Questo o soffre o è già morto. Mi dispiace, staccate la spina e non se ne parli più. I will be the greatest president that God ever created. Cruciani, sei un grande, un grande. La Zanzara. Allora posso confermare che David aveva una cara amica molto intima a Napoli, precisamente a Via Cilea. L'amica in questione si chiama Anna e ci siamo visti almeno un paio di volte a cena tutti insieme. Ricordategli di quel localino che sta a Via Cilea vicino all'abitazione di Anna, forse si ricorderà qualcosa. Ciao David, a presto. Intanto abbiamo detto questo, è intervenuto questo ascolto, io ho detto niente. Ma a questo si chiama pura diffamazione, scusa, ma come allora, vai a dare per buono un signore che chiama, dice che io sarei stato, hai avuto Anna, un amante a Napoli, la cosa è abbastanza, ma è una chiara, ci ma sono una conferme che bella e buona, ma non c'è niente di strano, non sei razzista, ma è tutto falso, ma non è falso, hai visto che cosa ha detto questo, hai sentito, ma no? Ma io posso farti chiamare anche io posso farti chiamare no, anch'io da un ciulla qualunque, dico un nome a caso, ad esempio, nostro capo. Sì, vabbè, però, dai. Dico un marchetto, nome a caso, posso far chiamare anch'io da questo signore e dire, ah, sai, io so che Cruciani questo ha chiamato esempio, e ha dato trans, dei dettagli, posso... ha dato dei dettagli ma chiari, dettagli, chiari. Ha inventato tutto questo infame. Una via, ha inventato... una via, un nome, ma tutto. Una via, ma anch'io posso dire che ti ho visto a Via Caracciolo con un trans. Ma non c'è niente di male, hai avuto un amante a Napoli. Ma ormai... non è vero, vabbè, sei veramente un maledetto. Vabbè, una diffamazione. Sgarbi, sì, le donne e Berlusconi. Sempre da magnifico intervento a Garda, vai. Berlusconi vedete, non ha fatto nessun reato, però gli mancava il contegno. Io glielo ho detto. Il contegno è che se diventi premier devi scopare di meno, è inevitabile. Ma non è povero, scopa prima, scopa dopo. Ma qui dice una grande verità, se uno diventa premier devi scopare di meno, oppure devi scopare in maniera nascosta, diciamo, senza però ad esempio tu ricorderai un caso storico straordinario, quello di François Mitterrand, ma non si faceva scoprire, era anche lui un ma non si faceva scoprire, tecnicamente si chiama Gnocca, ma non c'erano i telefonini, non si faceva scoprire, non c'erano i telefonini, però addirittura ha tenuto segreta una figlia per ma tanti certo anni, ma scopava no? A destra e manca sicuro, io sono stato addirittura aveva Kennedy sì ma certo, allora voi di sinistra per anni avete massacrato Berlusconi, io te lo voglio dire, perché per anni anni io ero in questa trasmissione, tu attaccavi Berlusconi. Io voglio dirti, io l'ho sempre difeso perché dico che non si guarda sotto. Vedi come cambiano le cose, però. Perché non si mette il naso nelle lenzuola della gente. Tant'è vero che è la figa che l'ha rovinato, non è che la figa faccia male, ma se la usi male, fa male. Beh, questa è altra grande verità sgarbiana. Anche questo è vero. Le opere d'arte, ancora, altra verità. Io ho avuto una formazione per cui le opere d'arte sono esattamente come le donne, devo guardare da vicino, sono anche miope per quello, capire com'è la materia, capire se ha il pelo o se non ha il pelo, e dico è buono o non è buono. Poi, come al solito, le paleoliche. Beh, le paleoliche, mi sembra. Ma perché ce l'hanno paleoliche? È fissato, ma senti in questo caso perché... Lui in ogni discussione tira fuori le paleoliche, le paleoliche. Possibile, io non ho mai avuto il coraggio di dirglielo in faccia, cioè, prima o poi glielo dirò, perché non mi va di mettere a fare la polemica. A me piacciono moltissimo le paleoliche, moltissimo. Mi piacciono da morire, non so perché, mi piacciono da morire. Adoro le paleoliche, non so. Si, posso dirti che anche a me non appena le vedo, a meno che non siano messi in posti inguardabili, appena le vedo, non so, mi sa di moderno, mi di qualcosa di... Poi non, magari non servono a un cazzo, perché non sono servite a un cazzo per adesso. Magari bravo, però appena le guardo queste cose che girano, le guardo ammirato. D'altra parte, qualche volta stanno in posti sul tavoliere delle Puglia. Ma che cazzo me ne frega che siano lì in Puglia? Non c'è niente intorno, va benissimo. Non c'è niente di male, no? Certo, se davanti coprono la vista di una chiesa, di una cosa importante, no? Oggi venivo, solo come fossi dalla Liguria. A un certo punto vedi piantato un cazzone di quelli che piacciono a Vendola, che era una paleolica di 150 metri. Ma come, io ho un paesaggio meraviglioso, arriva quella faccia di merda di Galan e al confine fra il Trentino, che se n'è liberato, e il Veneto, 5 paleoliche affi. Ma perché? Ah, il progresso, l'energia pulita, zucche vuote, culattoni di merda, incapaci. Perché devi fare queste metafore? Allora, Roberto da Roma, vai, Roberto, vai. C'è un Brunetta scatenato stamattina, eh? Aspetta, Brunetta scatenato, poi ve lo facciamo sentire, vai. Roberto, dimmi. Sono io, Roberto. Sennò chi sei, scusami, nonno, vai. Sei chiamato tu? Sì, grazie pure, Crucià. Vai, dimmi, Roberto, dimmi. Io volevo dire solamente una cosa, no? Sì, calma, con calma, vai, dimmi. No. Che tu hai parlato di Charlie, di quel bambino, no? Sì. No. Allora io ci sono passato da prima persona. Sì, ma che il bambino con la stessa sindrome di questo qua, non credo. No, però... E allora che ne sai? Tu non lo sai come cazzo... Quando il giorno dopo vai a letto la bambina ti dico che non arresta una nottata, no? Al bambino Gesù. Sì. Quello che passi. Come ma fai certo, tu a chi parlare ha detto niente? Spina? Ma chi ha detto nulla, scusami? Chi sì, ha detto tu niente? L'hai detto prima, io ho la spina, no, come i medici inglesi che non c'hanno il cuore per me. Ma che vuol dire che non c'hanno il cuore? È facile dire una cosa di questo tipo. Poi quando arriva ma che ne vuoi sapere della vita? Che ne vuoi sapere? Ma che cosa... ne vuoi sapere? Allora... Quanti casi ci sono stati? Non mi toccate Charlie, guarda. Ma che vuol dire non toccate Charlie? Ma non che ne sai? Charlie. Magari sta soffrendo, lo vuoi continuare a far soffrire? Lo vuoi continuare a far soffrire? Non ho capito. Una vita umana. Ah, una vita umana, allora è intoccabile. Sì, allora, scusa, quando tutta l'Italia, secondo i sondaggi, dalla parte del DJ che andava in Svizzera, dalla parte del DJ che doveva andare in Svizzera contro quelli che non lo facevano morire qui? Non ho capito, spiegami. Ma lascia perdere, quello so pensare, ma questo è appena nato, c'ha 10 mesi. E allora appunto. Meglio che non soffra, no? Se la situazione è da tutti i punti di vista irrecuperabile, è meglio che non soffra più. Ma non c'è dubbio. È meglio che non soffra più. Ma poi lo hanno accertato delle perizie mediche. Ma vabbè, il padre e la madre possono fare quello che vogliono. Non sto discutendo il padre e la madre. Il padre e la madre fanno quello che vogliono. Possono avere pure la speranza di avere un bambino morente. Madonna mia. Ma qual è il punto? Tu non li ami i bambini. Ma che c'entrano i bambini? Ma che vuol dire questa cosa? Ma come ti permetti di dire una cosa del genere? Non c'è ragione. Come ti permetti di dire una cosa di così che non ami i bambini? Sì, che dici? Prima hai detto, io non voglio che soffra, probabilmente li amo più io di te. Li amo più io di te perché non li voglio far soffrire. Non li staccate la spina. Se soffre va staccata la spina, se non c'è alcuna speranza. Tutti addosso te se scatenano. E chi se ne frega? Capito? Ma chi se ne frega? Adesso perché c'è tutti quanti tutti a casa su vede provete Luciani. Che vuol dire? Che vuol dire? Non è una minaccia, io là sopra ci sta sempre qualcuno cioè, che mi stai augurando la morte? Non ho capito. No, da lassù c'è qualcuno che vede e provvede. Che vuol dire? Ma pure per lui, pure per Charlie. Ma che vuol dire per ragazzi? Ma figuriamoci se ho qualcosa contro i bambini, ma stai scherzando? Io sto dicendo semplicemente che se uno sta soffrendo soffre o è un vegetale, è meglio staccare la spina, sì o no? Di prima persona, lo sei? Che ho perso la bambina e sapessi quanto ho sofferto. Ma certo, ma mica la vedevo davanti a me. E chi ha messo in discussione il fatto che tu abbia sofferto? Spiegami. A me mi ha dato fastidio, io ho acceso la radio tutte le sere, lo sento, no? Io sentivo che stavi a dire che staccate la spina. Certo, assolutamente, sì. Ma lo diciamo noi, lo dicono le sentenze dei giudici. Non so. Ciao Robè, ciao. Vabbè, ciao, state bene. Ciao. Buonasera, benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso il capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai! Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là. Da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Nella roba pazzesca, sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana, non ce l'hai. Cana, non ce l'hai. Niente, non ce l'hai. La zanzara. Mi fa sta male, sento dalla voce che sta male. Cosa sta dicendo quel mostro? Chi sei morto? Chi sei morto? Stai zitto che non sei nessuno! Poca figa massaggio. Voilà, ciao Parenzo, sono Giulio. Ti ricordi ci incontravamo spesso sul treno Roma-Napoli durante il weekend? Mi dicevi che andavi a trovare una tua amica a Napoli. Come va? Va bene? Fioccano le testimonianze, fioccano le testimonianze, ma le io prove, vi denunzio tutti, chiamo prove. L'avvocato Bevere, vi denunzio tutti per diffamazione aggravata. State diffondendo, io non sono mai stato un weekend a Napoli. Non c'è niente non di ho strano. Mai avuto un amante a Napoli. Questi imbecilli che telefonano millantando una mia presenza sul territorio campano, vabbè, ti sei fatto dicono una delle Napoli. Non c'è mai, non ho mai strano, avuto amanti a Napoli, ma è una diffamazione fatta su un mezzo che mi pare sia la radio della 24 della Confindustria. Come dici? L'avvocato Bevere in casa. Esatto, pronto a minacciare querele perché a tout le monde, come direbbe Hollande, a tout le monde. No, allora, a proposito della vicenda delle ombrelline, le ombrelline. Le ombrelline. Le ombrelline è una vicenda vergognosa perché è un episodio di sessismo pazzesco. Ma basta con questa cioè, cazzata, vedere basta. Degli uomini seduti che si fanno coprire da delle signorine, peraltro mi risulta non pagate, è l'immagine della casta che fa poi vincere i tuoi amici Five Stars. È una immagine vergognosa, sessista. Ma che sessista. Io spero che si muova la presidentessa della Camera, la dottoressa Boldrini. Ha già detto la sua cazzata. Ha già detto una cosa giusta. Senti che cosa ha detto. Questa foto Vediamo. È una brutta immagine. Sei donne che reggono l'ombrello ad altrettanti uomini, comodamente seduti per parlare a un dibattito sotto la pioggia a Sulmona. Bravo. Ci fanno fare un salto indietro. Sì, è un'immagine e terribile. Non sarebbe stato meno stridente se al posto delle ragazze ci fossero stati dei ragazzi. Come si fa a non rendersene conto? Ragazzi, ma non rompete i coglioni. Sul palco c'erano dei signori. La politica è fatta in gran parte di uomini. Comunque in quel caso c'erano dei presidenti di regione, un viceministro, altri ancora maschi, non c'è niente di strano. Per caso erano maschi. A un certo punto qualcuno stava piovendo, qualcuno ha detto c'è chi si propone intanto per darci una mano. E sono arrivate sei volontarie, donne, d'accordo, donne, ma le volontarie in gran parte erano donne, che erano lì con l'ombrello. Perché rompete i coglioni? Erano volontarie in un convegno. Qual è il punto? Dov'è il sessismo? Non c'è niente. Siete patetici con questa cosa, siete ridicoli, la dovete smettere con queste cazzate. Cosa c'entra il sessismo? Erano sei donne che si sono prestate, non con una pistola puntata alla tempia, per reggere un ombrello, basta, punto e basta. Tutti i grandi discorsi sul sessismo, le donne che reggono l'ombrello ad altrettanti uomini. Ma dai, basta con ste cazzate. erano Lorenzo, la Filippina che te pulisce il cesso, sì, va bene, quelle che reggono l'ombrellino, no? Bravo, vaffanculo, va. Bravo, bravo questo qua, bravo, picchia duro su ma cosa vuol dire? Dai. Ma che cosa vuol dire? La Filippina è pagata. Ma no, ma non c'entra niente, queste erano volontarie. Sistemare poi la vuoi, casa. Vuoi contestare che ci fossero delle volontarie a un convegno? Vuoi eliminare l'istituto? Io voglio dire che sarebbe stato molto bello vedere quei cinque uomini alzarsi e dire no, voi sedetevi e io e noi continuiamo a parlare in piedi tenendovi l'ombrello. Vabbè, ma che vuol dire? Ma nessuno se ne è reso conto. Qualcuno ha chiesto. Beh, ci tutti. No, tant'è ma che nessuno si era reso conto in quel momento. Ci può essere male, qualcuno che ci dà una mano perché c'è la pioggia e si male sono messe in sei con l'ombrellino. Cioè, non ci sarebbe stato nessun problema se ci fosse stato solo un uomo tra quei sei, solo un uomo. Ma la maggior parte delle volontarie, mi sono informato, 35 volontari in quel convegno, 24 erano donne, più o meno, 25, cioè la maggior parte erano tutte donne. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Vuoi distruggere? Guarda, per me l'immagine più bella è quella di Enrico Berlinguer, ma che davanti basta, ai cancelli, Mimo davanti da Napoli, ai cancelli della Fiat sotto una pioggia battente, sì, ma l'hai già detto ieri, ti ripeti, senza farsi coprire. Ma l'hai detto ieri. Ecco, l'hai ma quella è ieri l'immagine. Mimo, quella è la politica, Mimo quella da è Napoli la bella politica. Mamma mia, che palle, Mimo da Napoli, dai. Oh! Mimo! Mimo! Senti, buonasera, io mi vergogno anche di parlarti. Sì, ti vergogni, sì, di parlare. Mio, non parlare. Perché che sei cazzo un vuoi grandissimo pezzo di merda, sei. Sì, perché vabbè, sono un pezzo di merda? Spiegami. Sei un pezzo di merda, anche, sì, anche perché non fai un ragionamento buono, non fai. Cioè, non fai un ragionamento buono, non fai un ragionamento buono. Non sei fai soltanto un razzista di merda, sei. Sì, vabbè, ma a cosa questo ti riferisci, sei, scusa, imbecille? Mi cosa riferisco, allora, noi napoletani non siamo come voi. Ma che c'entrano i napoletani adesso? Stiamo parlando di altre cose. Che c'entrano i napoletani? No, no, no, tu parlavi di staccare la spina della la macchina. Ah, ecco, meno male, abbiamo ma capito di che cosa vuoi parlare. Ma c'è vita, c'è speranza. Ma quella non è più vita, secondo chiami tutti. Non è più vita, non c'è più speranza. Ma nemmeno chi lo dice a te? Lo dicono, non lo dico io, lo dicono ma tutti. Ma sono cazzi tuoi? Ma scusa, ma qui parliamo ma di tutti. Ma sono cazzi tuoi, rispondi. Ma che sono affari tuoi, chi allora? Sei tu che, ma sono affari tuoi, allora? Anche se staccare la spina. Ma io dico, è un'opinione come tutte. Qui è il campo. Ma che opinione è? Senti Mimmo, ma tu invece stai dicendo in la stessa cosa, stai dicendo, anche tu esprimi un'opinione, sei in diretto interessato, sei un genitore? Sei il genitore senti di quel bambino? Io non sono un genitore. E allora che vuoi? La tua opinione vale quanto? La tua opinione vale come la mia? La tua opinione vale come la mia? La tua opinione vale come la mia, chiaro? Stacco la spina? Ma che cazzo stai dicendo? Chi ha detto che io non è che io stacco la spina materialmente? Sto dicendo semplicemente che mi allora sembra una corsa all'esposizione mediatica, una ma corsa alla sei visibilità, ma non dei genitori, sei Trump, il Vaticano, il bambino Gesù, eccetera. E al contrario c'è una sola certezza, che questo bambino non ha speranze e forse soffre. Ma chi te l'ha detto che non c'erano speranze? Non ci sono speranze, lo ma dicono tutti. Ma se c'è vita, perché non c'è speranza? Ma non è vita quella. Ma non chi è te l'ha i medici detto che non è vita? Che vuol dire chi te l'ha detto? Lo dicono i medici, lo dicono gli scienziati, ma tutti. Ma tutti, dal primo all'ultimo, non c'è speranza nemmeno nella sperimentazione. Guarda, nessuno si può permettere di togliere. Va bene, volete fare i buonisti fino alla fine? No, va bene. Il buonista lo stai facendo tu che sei un pazzo di merda, non lui. Se tua moglie stesse soffrendo come un cane. No, cagna un'altra. Mimo, se tua moglie stesse soffrendo come un cane, tua moglie, tua figlia, eccetera, tu che cosa vorresti? Che questa sofferenza finisse, sì o no? Sì no, o ma no? Che sono io? Ma che sono io per giudicare la vita di un altro? Ma quella scusa è un'altra cosa. Tu la metti dal punto di vista religioso. Ma, quella sì, ma tu credi in un padaterno o no? No. Oh, no. Allora sei infedele, scusa. Ma sei un infedele? Beh, tecnicamente sei un infedele. Scusa, tu sei una persona, sei disgustosa, sei una persona... Ma tu invece sei veramente un coglione, sai? Sei veramente un coglione, sai? Sei veramente un coglione, ti assicuro. Ti ho detto solo disgustoso, in fondo. No, ma sei veramente un coglione. Cosa c'entra infedele? Ma che sei, un coso? Richiamatemi sto fenomeno, va. Sei un infedele. Beh, tecnicamente è vero, senza fede. Per una volta godi che mi molto danno addosso, molto, molto, molto. Effettivamente bisogna abituarsi, era un po' di tempo che non ho abituato. Ragazzi, è semplice. Se volete raccontarci delle vostre scopate nella stanza del nonno, o volete consigliarci come sciogliere i tranzanelli nel culo, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece vorreste pisciare della coppa di champagne di Parenzo, o anche voi siete disoccupati e cercate lavoro presso i Sauromati, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393-7171-701. Siamo al Sauromato. Allora, Mimmo, allora. Pronto? Allora, Mimmo, non ho capito perché mi hai attaccato il telefono, spiegami. Ma ti ho toccato il telefono. Non sì. Si può ragionare, scusa. Ah, io? Non si può ragionare? Non con si me, può ragionare. Con me. Prima hai detto pezzo sì. Di me e va benissimo, per carità, sono abituato. Ma uomo. ci sei, perché tu offendi tutti. Infedele, bene, quella la cosa mi è piaciuta, tu infedele. Sei un razzista di merda. Infedele. Non so come bellissimo. Cazzo fanno per prenderti a lavorare, perché per questo, lavorare bisogna effettivamente guadagnarti la pagnotta. Sì, ma okay. Tu che lavoro fai, scusami? Io sono un autotrasportatore e sono fiero. È meglio di te 100.000 volte, perché tu spari cazzate. Sì, ci sono okay. Camionisti e democratici. E noi facciamo i fatti che lavoriamo. Noi facciamo i fatti. Sono i famosi camionisti della maggioranza silenziosa, vedi? No, che maggioranza silenziosa? Maggioranza silenziosa, ma lo senti questo coglione? Ma figo, questo va no, mignotte. Stavo dicendo, questo professore, va mignotte che lei più è un autorevole esponente degli auto. Ma ci vado a mignotte, ne sono fiero, però non apro la bocca come te, scemo. Ma che dice? Ma che dice? Hai capito, no? Tu lei è un autotrasportatore della maggioranza silenziosa. Di merda. Non è della maggioranza silenziosa, ma mignotte. Di merda. Sei contro tutte le religioni, secondo me. Cioè, ma se è una religione sbagliata, a te che cazzo ne frega per giudicarla? Scusami, ma tu sei cattolico? Tu sei cattolico? Sì, sono ma sono credi un cattolico. In Dio tutto. Credi in Dio. Sì, ma se non ci sarà Dio, non ci sarei nemmeno tu, nemmeno no, io. No, ma guarda, tu credi coglione. Tutto, sei religioso, ma che cazzo di vai a messa, vai a messa? Ci vado a messa, perché e non vai ci dovrei andare, e vai a puttane, giusto? Ma qual è il problema? Sono cazzi tuoi. Lo vedi, Parenzo, non appartiene alla maggioranza. Questo signore non appartiene alla maggioranza silenziosa. Che cazzo te ne frega? No, ma d'accordo, per carità. Però, Parenzo, ti rendi conto che questo qua non appartiene alla maggioranza? Tu l'hai subito messo in una fase, sta passando alla maggioranza. L'hai messo dentro la maggioranza silenziosa. Ma che cazzo sta dicendo questo? Tu sei peggio di quello là che c'è di fronte, te lo dico io. Sono un esponente. Hai capito? Più autorevole. Della guarda che noi non siamo allora ora ti dico una cosa, sì, dimmi, a giudicare una persona è dimmi. Brutto sì. Tu devi fare i cazzi tuoi sì. Devi accogliere tutte le persone quando ti chiamano, ognuno ha la sua opinione, chiamiamo anche te, chiamiamo persino te, non persino devi essere un razzista di merda, persino di te, persino te chiamiamo, hai capito? Mimmo, abbiamo chiamato parli male dell'Islam, parli male di questo sì. Parli male di quel, ma che cazzo sei te, fammi capire. Ma beh, come cazzo ti permetti? Mimmo da Napoli. C'è ancora Mimmo un percorso da fare, però esponente non si comporta così. Una persona sì. Crede o non crede, deve sì. Sempre parlare positivo degli altri. Positivo, sempre okay. Positivo. Si chiudiamo se bottega, una persona è cattiva, bottega. Ci cerca di farla diventare buona. Sì. Non bravo, come vedi. Fai tu, l'Islam di merda, razzista di merda. Siamo tutti d'accordo che le cose non vanno bene. Senti, non ci vuole vedi, un coglione come te per vedi, dire che le cose non vanno bene. È un auto, è un camionista che sta entrando nella dimensione della maggioranza. Silenziosa è giusto perché ma usa tu un perché linguaggio... non ti stai zitto, ma che cazzo sta parlando con te? No, voglio dire, lei usa un la linguaggio ancora greve. Ma niente maggioranza, qua bisogna avere le palle sotto e dire le cose come no, stanno. Ma come stanno però, cosa? Come stanno la nostra cosa? Radio è una radio di merda che non ingarra una. Questo adesso, però questo... Non si può dire così. Ma no, no, si può dire così perché no, con te si... a quanto ci si può parlare. Parlare. No, però... Lascialo parlare. Ma con quello no. Che c'è a fianco, un pezzo di merda. Lascialo parlare. Quello se viene a Napoli gli fanno un culo così perché noi ma napoletani chi? Siamo un popolo accogliente sì. Che abbiamo votato sempre alla destra noi. Sì, ma veramente non lo devo dire a questo grandissimo stronzo che non risulta, non c'è De Magistris, c'è De Magistris, presidente della regione sindaco di Napoli. Sindaco di Napoli. Ma non quale destra. Di Magistris va a lavorare la mattina, non è come te che spara cazzate. Abbiamo trasmesso. Di Magistris sta a Napoli che è difficile da gestire. Sì, certo, non c'è dubbio. Non un coglione come te che non riesce bravo. A gestire c'è anche un po' di radio. Sì, sì, certo. Mimmo, grazie. Hai capito? Abbiamo trasmesso Radio Imbecilli. A presto, ciao. Ma tu sei un grandissimo stronzo, te lo dico io. Crucia, finalote! Boldrini, scusami, sei una brava ragazza. Boldrini, sei un'amica dei cristiani. Ed è morta. Intervengano i commessi. Boldrini, ed è morta. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Nilox.com, dove la tecnologia diventa sport. La Zanzara. Mo Peppe, pure tu, cazzo, anch'io sono stato col cagotto forte 3 giorni, ma che cazzo è, un virus? Mo stavo dal commercialista, porca puttana, sono diventato bianco, per fortuna che stava mia zia da quelle parti. Scagazzata imperiale con difficoltà ad alzarsi, con spremuta di limone, i modium passati da dietro la porta. Cazzo, come ti capisco, Beppe, sei forte. Cazzo, io sto debilitato, tu c'hai sempre quella cazzo di energia, minchia, mi sa che più caghi più stai meglio tu. È inutile dirti, caro Davide, che questo qua era chiaramente fatto di qualche sostanza, mi sembra. Probabile, no? Mi sembra, molto probabile. Mi sembra totalmente fumato. Allora, ragazzi, vi leggo a proposito della vicenda di Charlie, che mi state rompendo i coglioni con i messaggi dicendo sei un crudele, i genitori, il bambino deve essere salvato. Intanto vi dico che al Bambin Gesù è stato praticamente proibito di prendersi questo bambino, cioè l'autorizzazione è stata negata. Dunque, la smettessero di impicciarsi dei fatti degli altri. Non è che quell'ospedale lì è l'ospedale dei mostri, non è l'ospedale dei medici che vogliono uscire. Non siete più bravi voi rispetto a quelli là inglesi, chiaro? Signore del Bambino Gesù, no, che cosa significa? Lo prendiamo in cura noi. Cioè, ma quelli là prenderanno le loro decisioni in base a criteri scientifici, sì o no? Non sono dei mostri, non sono degli assassini lì. Non mi pare che la Gran Bretagna sia la patria dei carnefici. Allora, leggo da parte di una dottoressa, adesso poi vi ritrovo il nome, una cosa molto cruda, una dottoressa cattolica, peraltro, una cosa molto cruda. Per un bambino che occupa un posto in rianimazione per settimane senza prospettive di miglioramento, decine di altri bambini, forse con patologie acute guaribili, non hanno possibilità di accesso per il posto occupato. Sembra una crudeltà portare questo argomento, ma in medicina e nelle urgenze occorre prendere delle decisioni. Scegliere funziona così, sempre. Si parte dal più grave che può essere salvato, non da chi non ha chance. Crudele sì, ma il limite esiste. Dunque è immorale tenere per mesi occupato un posto per un bambino che viene tenuto in vita non per non affrontare il fatto che non c'è nulla da fare, o per non urtare la sensibilità del mondo che non accetta la morte, o per accontentare dei genitori che non sanno farsi una ragione del fatto che il loro bimbo non diventerà grande. Si può fare per un po', ma non per sempre. Ragazzi, può sembrare cinico, ma è un argomento, è l'unico argomento che persone estranee alla vicenda possono portare. Altrimenti c'è Trump, il Bambin Gesù, il Papa, la commozione, i tweet, ma la politica. La commozione ci può stare. Ma sì, la commozione di chi? I politici italiani che si commuovono, ma non rompeteci i coglioni con queste cose. Non ci crede nessuno che uno si commuove per il piccolo Charlie. No, poi molti di questi sono anche gli stessi che quando invece un barcone con dentro richiedenti felicità finisce in mare, sono i primi sono i primi a usare parole di cinismo assoluto. Quindi io i commenti che ho letto sulla vicenda di Charlie, se poi vado a vedere i commenti che hanno scritto sui bambini, sui profughi, sui richiedenti felicità che sono morti del mare nostro, trovo una discrasia, come diresti una tu. Discrasia. Una discrasia. Lo dici per anticipare l'intervento di una persona che fra poco interverrà, forse. Una discrasia assoluta. Emanuele, sì. Da Udine. Trovo, vai. Uno iato enorme. Uno iato, un grande iato. Fra poco iato, vi annuncio, ragazzi, un filosofo alla Zanzara. Molto bene, molto incredibile. Bene. Emanuele da Udine, vai. Sì, salve, buonasera. Dimmi. Allora, guardi, una cosa sola, io tutto il suo discorso sta su Charlie, sto bambino, povero Cristo, ci dispiace, per l'amor di Dio, tutte belle cose, un bambino, eccetera. Ma sti peste di cazzo che rompono i coglioni, non staccate la spina, non posa. A parte che se lo portano via da quella stanza, da quello che ho capito è morto, quindi lo portano al Bambin Gesù, a che fare? A fare la camera ardente, cosa facciamo? Lo portiamo in America da Trump a fargli la camera ardente in America, perché se lo si sposta muore. Come lei sa, esiste il trasporto di persone malate con tutte le attrezzature. Sì, certo, parento, ma sono i medici stessi che dicono che se il bambino viene trasportato il 98,9% di possibilità di morire durante il trasporto. Certo. Ergo non può essere trasportato. Il bambino ha una malattia incurabile, capisco i genitori, perché i genitori sono un'altra cosa, non c'è neanche una parola in italiano per definire la perdita di un figlio, tutto quello che vuole, per l'amor di Dio. Però questo teste di cazzo che rompono i coglioni con sto bambino, povera anima. Riescono a capire che ogni giorno, ogni 5 secondi muoiono 3 bambini di cacarella al mondo e nessuno rompe i coglioni? Bravo, perché bravo. Questi non vanno a pulire il culo ai bambini che hanno la cacarella, è un argomento sciocco, comprano l'Imodium per curarli e farli guarire e farli crescere? Ma è un argomento stupido. I bambini che hanno la cacarella e la panza gonfia d'aria con la mosca al naso in Africa valgono meno del bambino inglese che ha la malattia terminale, che sta per morire, eccetera. Allora, il mio discorso è: ma invece ma è evidente che le persone comunque si commuovono per ciò che hanno più vicino, ma più guarda, in prossimità, commuovo, direbbe il filosofo. Questo è ovvio, no? Mi sono commosso anche quando mi è morto il gatto e ho pianto, ma il mio gatto, io non posso pensare che Cruciani pianga perché muore il mio gatto, perché è una puttanata, mi perdoni. Bravo, non ci credo nemmeno io a quelli che si commuovono. Emanuele, a quelli che si commuovono per Charlie, io non ci credo. A quelli che si commuovono da lontano per Charlie, io non ci credo. Non ti può creare maggiore empatia un fatto che avviene nella tua prossimità. Ma questo è la mediaticità del dai, fatto. È tutta non una commedia. E dire la bella parola, oddio, sono commosso. Ma che ti commuovi di che? Se pensi ad altro, se pensi ad altro dalla mattina alla sera, sono tutte puttanate. Dai, su. Beh, intanto cominciamo a usare un linguaggio più consono all'ingresso del filosofo. Va bene, allora cerchiamo di usare Donato Varese, grazie Emanuele, grazie. Sei forte. Donato, non è lui. Pronto, sì, infatti sono un altro Donato. Sì, ah, quindi sì. Esistono anche persone normali lì, meno esatto, male. Sì. Bene. Io vi ascolto sempre, è la prima volta che intervengo. E intervengo perché proprio sul caso di Charlie, perché sono il padre di un bambino che purtroppo 10 anni fa ho dovuto dare il benestare per staccare la macchina che lo teneva in vita, e nel suo caso un cuore artificiale. Sì. E quindi niente, devo dire che effettivamente quando dietro il dolore non c'è speranza, bisogna fare così, insomma, ecco. E questo avviene tutti i giorni in tutti i reparti di rianimazione d'Italia e del mondo. Sì, no, lì c'è stato un conflitto naturalmente tra le sentenze e i genitori che volevano tenerlo in vita, dunque c'è stato un conflitto che magari in altri casi non c'è, nel suo caso non c'è stato chiaramente, però il punto è un altro, ragazzi, non c'è, lì non ci sono i cattivi giudici che vogliono imporre dall'alto la legge contro i genitori, no, c'è una situazione irreversibile. L'unico che può dare delle risposte sono i medici. A me la cosa che mi fa incazzare sono questi qua che si commuovono, il Papa, Trump, i bambini Gesù, l'Italia, che tutta l'Italia commossa. Dietro, ragazzi, è morto, non c'è niente da fare. Ma chi è d'accordo che bisogna evitare la sofferenza dovrebbe dire staccate la spina, dovrebbe dire avete ragione, giudici inglesi, siete voi molto più empatici voi che magari freddamente con quelle toghe decidete la sorte di questo ragazzo. Sono molto più vivi loro, sono molto più umani, come sono umani loro, direbbe un tizio che è morto l'altro giorno. Nel migrante, il nuovo individuo apolide del sistema capitalistico che non ha direzione, è in balia di un moto browniano nella società atomizzata del capitale, dove viene spostato secondo la delocalizzazione di massa. Capito, ragazzi? Meno un male. Filosofo alla Zanzara, caro Parenzo. Bene, bene. L'ho fatto per te, per grazie. Alzare un po', per alzare. Per alziamo alzare un po' il livello po'. E anche l'eloquio, così questi poveri miserabili che ascoltano, sì. E quelli che telefonano, perché quelli che ascoltano sono persone colte, possono magari non capire tutto il discorso che faremo, però magari googolano alcune parole, no? Quindi gli viene il dubbio, la curiosità. Instilliamo la curiosità, la sete di sapere oggi, in questa mezz'ora che trascorreremo col filosofo, instilliamo adesso. In questi imbecilli che chiamano. In questi imbecilli che chiamano la sete di sapere. Allora, questo è bello. Abbiamo con noi Diego Fusaro. Buonasera. Buonasera ecco. A voi da Diego Fusaro. Eccoci qui. Allora, il signor Fusaro è conosciuto per diciamolo essere... tutto. Professor Fusaro è anche professore di filosofia presso l'Istituto degli Alti Studi Strategici e Politici. Vabbè. Ed è autore del famoso saggio Bentornato Marx. Benissimo. Allora, si picca di essere però un filosofo Marx, non i fratelli Marx, esatto. I comici si americani. Si picca di essere un filosofo marxista. Allora io no, dico... si picca, è un filosofo sì, marxista. Sì, va bene, d'accordo. Io vorrei capire da Fusaro subito una cosa. Alla radio della Confindustria, diciamo. Assolutamente, pure, che lui considera l'altro grande ossimoro di questa giornata. lui considera, no? Evidentemente, immagino, caro Fusaro, la Confindustria, sì, i poteri, i, no, padroni, vabbè, come qualcosa di, beh, come dire, un grande pericolo, comunque il lato oscuro dell'Italia. Come giudichi di questa baracca che ci paga, per esempio? Baracca, scusa. No, questa baracca. Fusaro, dimmi. Preciso subito che io non amo definirmi marxista, preferisco invece la più sobria definizione di studioso indipendente di, sì, Hegel, di Marx e di Gramsci. Vabbè, pure, mi pare una, sì, precisazione, no, doverosa. E anche di Donato da Varese, potrebbe cominciare a studiare anche Donato da Varese. Perché il marxismo è stato tante cose, sì, anche, vabbè, non tutte positive, quindi faccio, sì, questa precisazione. Vabbè, come ti definire, filosofo di che cosa, grande, allora, scusa, filosofo di che? Filosofo hegeliano, filosofo marxista, come ti si può definire? Filosofo, beh, diciamo. Filosofo hegeliano e marxiano, ecco. Marxiano, marxiano è ciò che è uscito dalla penna di Carlo Marx, marxista è ciò che è venuto dopo. Bene, benissimo, è importante questa qua, per i nostri ascoltatori, sì, è fondamentale. Allora, beh, no, però, assolutamente. Diego, allora, anzi, professor Fusaro, io vorrei dire una cosa, come giudichi questa baracca che ci mantiene? Ma perché questo? Cioè, gli industriali italiani, parte, ma di una, perché, grande, come, ma, dire, chi sono per te i padroni? Ecco, questa, dunque, è la... Dunque, una piccola precisazione, ancora, bisogna distinguere fra gli imprenditori nazionali, sì, italiani, sì, che cercano di resistere, di mantenere in piedi, sì, il lavoro, di mantenere in piedi l'impresa, sì, e, sì, i valori ad essa, sì, legati, e sono, ottimo, in questo senso qualcosa di positivo, certo, laddove invece abbiamo oggi sempre più a che fare con quella che io nei miei saggi chiamo l'aristocrazia finanziaria, che non vive di lavoro, sì, ma vive di rendite finanziarie, che sta distruggendo e le classi lavoratrici, sì, difese a suo tempo, sì, da Marx, e chi sarebbero, e gli imprenditori italiani, nazionali, che vengono anch'essi travolti nel vortice, certo, di questa mondializzazione senza cuore, sradicante da parte di questa elite finanziaria apolide. Per cui l'imprenditoria, vuol dire, perché senza non ha radici nazionali, è anzi nemica di ogni processo legato alle sovranità nazionali. La mondializzazione capitalistica gestita da questa elite è, sì, denazionalizzante, ha dichiarato guerra a tutti gli stati sovrani nazionali. Beh, è per questo che io, lasciatemi ancora dire, ho creato da poco un'associazione, che è una rivista che si chiama L'Interesse Nazionale. Ah, L'Interesse Nazionale. Beh, che ha come obiettivo quello di unire la classe, sì, imprenditoriale, sì, nazionale, la classe lavoratrice nazionale, sì, per cercare una ripartenza nazionale italiana che abbia al centro, ecco, la cultura e il lavoro. Ecco, benissimo. Questa è la questione filosofica. Assolutamente, questa è la prima lezione, poi nei prossimi giorni ci saremo date altre da qui, Parenzo, fino alla fine. Parenzo, scusa, sei esattamente l'opposto di quello, sì, che pensi tu. Totalmente l'opposto, cioè, di quello tu praticamente che pensi. Sei dicendo, sì, viva l'Europa, abbasso le nazioni. Io dico, eccetera, va abolito l'interesse nazionale. Cioè, sei praticamente considerato da Fusaro una specie di nemico. Sei il nemico, sì, giurato di Fusaro, diciamo la verità. No. Allora, preciso che in filosofia precise, non esistono nemici, esistono solo amici dialoganti, come insegna Platone. Senti, il caso delle ombrelline, scusami, professor, il caso delle ombrelline là che portano, hai visto, no, sui giornali, sì, il caso delle ombrelline, che pensieri ti fa nascere a un filosofo? Che pensieri, no, le donne, sei donne che reggono l'ombrello ai politici che stanno là, che riflessioni può fare un filosofo? Ma questa è la schiuma della storia, sono questioni di poco conto, di cui, o come direbbe Hegel, la polvere della storia, sugli stivali della storia, cose del tutto irrilevanti rispetto ai concretissimi rapporti di forza di un'Unione Europea che tutto a vantaggio va del capitale e che sta andando tutta a nocumento dei lavoratori e degli imprenditori nazionali. Ecco, ogni tanto questo bisognerebbe dire. Cioè. Ecco, però, professore, un'altra cosa interessante è, ma ogni tanto lei non si accorge, quando la sento in televisione, eccetera, noi abbiamo fatto una nostra rubrica che sono le supercazzole di Fusaro, no? Cioè, ne sono grato perché, sì, assolutamente, mi sento nobilitato da questa rubrica. Assolutamente. Ne sono grato. A me piace perché è educato. No, però voglio dire, ogni tanto oltre lei è un ottimo eloquio, pensa, è anche educato. Pensa di essere, come dire, di non farsi capire con le cose che dice, perché ogni tanto le assicuro che non si capisce una mazza. Per esempio, quando uno dice, io penso molto semplicemente che si stia producendo oggi una guerra fra gli ultimi nel piano orizzontale che si declina come lotta fra chi ha ancora una casa in cui vivere e chi non c'ha, e si crea un conflitto nel basso. La tendenza generale oggi, lo sappiamo, è quella, la precarizzazione completa del lavoro, del mondo della vita, con una creazione connessa di una plebe moltitudinaria senza casa, migrante, senza identità, che si muove nel piano liscio browniano della globalizzazione. Ora, questo è italiano, è una lingua italiana molto. I migranti oggi, cosa sono? I migranti oggi, i migranti, per un filosofo come te, Diego, che cosa sono i migranti? Ma i migranti sono essenzialmente oggi tre cose. In primo luogo sì. sono gli strumenti che nella lotta di classe sta utilizzando l'aristocrazia finanziaria sì. ai danni della classe del lavoro, che è composta e dai migranti e dagli autoctoni. Capito, i migranti Parenzo. Non vengono integrati, come pure sì. sarebbe giusto fare, sì. vengono semmai utilizzati per abbassare i costi della forza lavoro nazionale sì. in una guerra al massacro fra i più deboli. Non ecco, quindi il nemico oggi non è molto il migrante, bene. Ma chi costringe i popoli a fuggire. Ma pare inutile che dici non molto. È fame, inutile... Sì, ma non sono, fame, non sono. Ma ho non capito, sono ovviamente d'accordo. Ma no, ma tu però dici mi molto piace... bene, dici delle cose opposte a quelle che dici tu, opposte. Sì, però le dice. Però per andare un po' che... su un terreno a noi, come dire, molto, molto vicino. Per esempio, i rapporti tra un filosofo marxiano, come hai detto, è una cosa molto semplice che tutti gli italiani fanno. Adesso non la prendere male. Ma per esempio, la masturbazione, no? Beh, ma che se ne frega? No, ma è interessante. No, è interessante capire da Fusaro questa cosa qua. Cioè, come si pone, cioè, un filosofo di fronte all'autorità. Autoerotismo, no, ma interessante. No, vorrei capire se c'è un nesso. No, ma te lo dico in seriamente. In un'epoca di individualismo radicale come questo, non Bellissimo. Stupisce che accanto alla pratica da lei evocata, l'amore stesso tenda sempre più a farsi individualizzato. Bravo. Viene meno questo l'amore, resta solo il godimento autistico, sì. dove l'altro figura sempre solo come strumento di piacere. Viene Bellissimo. Meno l'amore come nesso relazionale autentico. Questo ed è per questo che io le suggerisco, se posso, sì, come no, di leggere sì. il Simposio di Platone, che è un capolavoro della letteratura filosofica occidentale, nel sì. quale è centrale il nesso d'amore come nesso filosofico, perché sì, il filosofo certo. è dunque, però diciamo, rispetto alle gang bang invece, cioè, nel senso che il capitalismo, più... ecco, il capitalismo sì. distrugge l'amore da questo punto di vista, cioè, non il capitalismo, vuole solo il godimento individualizzato, e non ma no, il anzi, il capitalismo aumenta l'amore. No, e allora non credo. Ecco, da invece questo... l'altra pratica sì. che lei diceva è una forma di squadrismo erotico, lo definirei così. Ah, la gangbang è uno squadrismo erotico. Che vuol dire lo squadrismo erotico? Vuol dire che sono più persone. No, no, ma che vuol dire dal punto di vista filosofico? Squadrismo. Lo squadrismo rimanda ad alcune delle pagine più tristi della storia del Novecento, naturalmente. Sì. Si pratica oggi lo squadrismo in molti modi, anche negli attacchi incrociati che vengono condotti sulla rete, ad esempio quando si prende di mira esizialmente una persona sì. attaccandola in più modi e così via. E anche per esempio, in questo caso nulla sì. vi è a che fare con il vero nesso amoroso, che implica una relazione tra persone che si riconoscono sì, e al tempo questo. Stesso si Molto. Donano l'uno all'altro. C'è un passaggio bellissimo di sì. Romeo e Giulietta in cui Giulietta dice più ti do più ti ho. Quindi un nesso donativo e altruistico che in quanto meraviglia. Tale non può essere recepito nell'epoca del do-des mercatistico dilagante. Cioè, per cui gangbang, scambismo, sì. Sesso vissuto in maniera come dire spontanea, con sconosciuti, eccetera, sono tutti prodotti di questa società marcia, diciamo, no? Di questa società Beh, in cui c'è il do-des. Del sesso che diventa merce, ti dice. Esatto, come del lei stesso avrà sì. notato, vi è una certa assonanza fra libero scambismo e scambismo. Per questo oggi il vero rivoluzionamento nell'ambito erotico e mantenere fermo il valore della famiglia tradizionale come cellula comunitaria, solidale Capito? E aliena ai nessi del mercato. Il rapporto che lega una madre a un figlio non sarà mai permeabile dalla forma merce, lo dice già Aristotele nell'Etica Eudemo. Le madri amano i figli in maniera del tutto disinteressata sì. e quand'anche non potessero mai più sì. vederli, continuerebbero non di meno ad amarli. Per cui, diciamo, la risposta alle gangbang, al sesso sfrenato, Beh. Alla pornografia anche volendo, no? La pornografia penso che tu, Diego, la consideri una specie di disastro totale. La risposta è la famiglia tradizionale. Beh, insomma, questo non ci voleva, diciamo, il filosofo come Marziano. Baluardo, come ultimo, come baluardo, ultimo baluardo comunitario io però mi di viene... resistenza. Sì, siccome dobbiamo chiudere, io mi viene una domanda da fare, siccome ti vedo spesso in trasmissioni televisive, per carità, grande fascino, eccetera, sei anche un bel ragazzo. Quanti anni hai, scusami? Ringrazio, 34 compiuti. 34. Qualche mi viene il sospetto che tutto questo venire in trasmissioni, visibilità, certo, per carità, tu alla fine un po' questo ruolo un po' lo fai anche perché rimorti un sacco, no? Cioè, hai successo con le donne. Ma niente affatto, sì, il filosofo secondo mira me. Soltanto alla verità, alla ricerca Beh, della verità in uno bello. Spazio dialogico. Però sei sempre accompagnato da donne bellissime. Beh, alla fine, il fatto che sia un bell'uomo alla fine questa tua posizione così filosofica, il fatto di esprimere queste idee, di essere ospite in trasmissioni, te fa scopare come un dannato, diciamo. Ma non è affatto così. Io il mio tempo lo consacro a Platone, Aristotele, Fichte e Hegel. queste tutto sono le mie priorità: lo studio e la ricerca appassionata della però verità. Anche Socrate, tentativo... anche Socrate era un grande, no? Grande trombone. Sì, però Socrate non posso leggerlo perché non ha lasciato nulla di scritto, mentre ecco, gli altri quindi, che menzionavo, cioè abbiamo Platone, hanno lasciato. Certo. Comunque, mi dici, non lo fai per sola visibilità, lo fai come servizio alla società, diciamo, no? Cioè, non lo sai. Ah. Il mio principio è quello gramsciano: occorre creare un'egemonia culturale. Il posto che non occupo io, se non vado in TV o sui giornali, bellissimo, lo occupa qualcun altro, e non si creano così spazi di egemonia. Anche con l'interesse nazionale stiamo provando esattamente a costruire spazi di egemonia e fenditure nel pensiero unico dilagante. Dilagante. Mi piace anche il termine fenditure, molto fenditure, bello. Fenditure, filosofo, cioè, sì, alla zanzara. Ciao Fusaro, ciao. Un caro saluto da Diego Fusaro. Miserabili! Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno. Ti vogliono un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato non... lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. La zanzara. Tu sei una pezza di merda, Seymour. Buonasera, vorrei sottoporvi il mio caso abbastanza strano. Io piscio regolarmente nel lavandino, ma pretendo la brocca di vetro a tavola. Sono un po' un misto. Cosa sono? Un miserabile silenzioso? Chiunque ritiene miserabili o come li si voglia qualificare le persone come me, qui, medesimo, che vanno a puttane, è un deficiente. Chiunque sostiene che no, io o mia moglie non ho bisogno di andare a puttane, ma vai a fare in culo, stronzo. Non capite un cazzo. Non capite un cazzo. Perché la figa si deve anche pagare. Siamo qui, sempre a combattere, caro David, sempre a combattere. Lo so che sei stanco, che lo so vita, che ti prepari ragazzi. ti prepari a una lunga stasera. Sì. Lo vogliamo dire che sarai in onda fino a mezzanotte? Lo vogliamo dire o no? Sì, lo dico anche a tutti i miserabili, a tutti coloro che dicono no, non lo guardo, e poi guardano. Allora, potete lasciare la zanzara subito dopo, sì, mettervi in collegamento sulla poltrona, sul divano, con la sette, comodi, vedere, con una brocca di vetro. Con una birra, la stessa che beve Bersani, per esempio, sì, cioè come vi pare, eccetera. E mettervi sul divano a vedere, se non avete niente d'altro da fare, per carità. Vabbè, dopo questa marchetta con la sette, vostra fidanzata, bravo, sì, esatto. Andiamo a Cagliari da Mario. Vai Mario. Chi è Mario? Mario, adesso sentiamo. Vai. Sì, Mario, dimmi, vai. Chiaro? No, volevo semplicemente schierarmi a favore del dottor Parenzo, perché comunque secondo me ha ragione. Su che cosa ha ragione? Su che cosa? Ha ragione su molte cose, ma la cosa più importante è il discorso delle bottiglie di plastica. Sì, vabbè, è una vecchia questione. Ma non è vecchia, è una cosa fondamentale. È una religione che va rispettata, anche le bottiglie di plastica. Ma perché vogliamo parlare dei rotoli di Scottex sul tavolo? Quella è la cosa vergognosa. Ma che vergognosa? State scherzando? No, io ho il rotolo di Scottex che porto a tavola, che strappo a tavola e uso per pulirmi la bocca, per pulire tutto. Ma qual è il problema? Con la tovaglia, non sono cose che si possono contemplare nel 2017, sono assolutamente compatibili, perché non è a norma. Non è a norma rispetto a cosa? La busta del panificio a tavola? Ma dai, cioè, mamma mia, bravissimo, esatto. È una lotta di religione. No, ma quello lo avrei detto dopo, cioè il fatto che ci vuole il portapane, ovviamente. Ma quando mai? La busta del pane è spessissima. Ma cosa sei in un campo rom? Cosa sei in un campo rom che metti la busta del pane sul tavolo? Adesso te la prendi pure con i campi rom. Te la prendi pure con i campi rom. Voglio dire, è un'altra usanza. Evidentemente. Allora, io sono un camperista, ti assicuro che anche nel camper è tutto perfetto. Però io mi sto chiamando perché ho veramente un dubbio. Io, e le bottiglie di acqua in vetro? No, ma quelle sono ottime, quelle sono ottime. No, le bottiglie, l'acqua, lo ripeto ancora, va servita nella brocca. Nella brocca non controlli nemmeno da dove viene nella brocca. Tu devi avere un'acqua buona, minerale o naturale, e scarafarla. No, vabbè, ragazzi, ma Mario, no, Mario, ma come sei collegato? Col viva voce o con l'auricolare? Col viva voce, lo levo. Su, Marco, su, cazzo. È due ore, no. Sì, Mario. Mario. È due ore che parli col viva voce, che cazzo? No, perché dicono che fa male. Fa male. Ma ho capito, ma che cazzo me ne frega? Cioè, vabbè, ciao Mario, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, fermi tutti, c'è il karma. C'è il karma, fermi tutti, mamma. C'è il karma. Karma, amico mio! Buonasera. Come andiamo? Buonasera, Giuseppe, buonasera. Giuseppe, mancava questa cosa. Come va? Non c'è mai. Come va? Cosa parla? Ma tu, anche tu mangi, anche tu bevi con le bottiglie, con le caraffe di vetro oppure con le... La carta igienica mi pulisco muso, ma che minchia mi interessa, Giuseppe? Beh, quello certo, avendo tu la avendo sì, tu esattamente la faccia, dai, come culo, mi sembra evidente, questo è conseguenziale. Mia, l'ingoglionito, muslim. No, voglio dirle, professore, no, le faccio notare, professor Karma, sì, che avendo lei detto che si pulisce la bocca con la carta igienica, ho detto che in questo c'è coerenza, ovviamente. La carta igienica, quella nuova, c'ha due peli. Uno strato, quell'altro ti assorbe, capito? Pure quando ti stui un culo, quello ti assorbe. No, ma per carità, adesso queste sue valutazioni. La faccia o culo, è la stessa cosa, non cambia niente. Beh, nel suo caso, professore, nel suo. In tutti i casi, in tutti i casi. No, nel suo, nel suo. Dimmi, dimmi, Karma, dimmi, dimmi. Una cosa, Giuseppe, no, ti volevo dire, forse è la mia esperienza praticamente. Ah, sì, certo, eravamo rimasti lì. Ah, ti volevo dire, ho conosciuto un noto primario di una clinica di Milano, che non te posso fare. Sempre, sempre i primari conosci nei bordelli. Welcome. No, e siamo diventati amici, pure un numero. Giuseppe è una persona meravigliosa. Pazzo, non si possono fare i nomi, delle persone che vanno nei bordelli. No, non lo posso fare, no, non lo posso fare, no. Ma ti dico solo una cosa, 58 anni. Sì, sì. 58 anni, fisico preciso, perfetto, noto. Noto primario di sta clinica, non sono minchiate. Lui va due volte al mese come a me, ci diamo l'appuntamento, ci troviamo quasi sempre lì. Ma com'è stata l'ultima esperienza? Com'è stata? Che cosa c'è stato di particolare? L'ultima esperienza ti posso dire che sono entrato in un bagno turco, praticamente c'è stata una ragazza rumena, una cosa fenomenale. Una cosa fenomenale, una modella, meglio. Ma questo parla solo di queste porcherie qui, ma io non ho capito. Scusami, ma questo qui parla solo di queste porcherie? Ma che porcherie? Ma non c'ha una dignità, non ha un minimo. Io c'ho la dignità, è quella di andare a trombare, non ti preoccupare, sembra quella. Ma che modo di fare? Ma che roba è? No, ma dico, al di là di questa modella romena bellissima, che c'è di nuovo? Diciamo, quali novità ci porti dall'Austria, Karma? La novità, Giuseppe, e quale sei? Novità praticamente che là adesso stanno cambiando un po' le cose. Cioè? Che praticamente ti può portare la ragazza sopra in camera, paghi un extra di 50 euro . E anziché andare a trombare lì nelle stanze dove va tutta la marmaglia, sì. Io ultimamente vado lì, prenoto la mia stanza, mi porto a borsa, tutto quanto e sto pronto già direttamente, vado in camera mia, cioè, con un extra di 50 euro per tutta la serata. Ah, c'è un extra di 50 euro, tu dici, un sì, extra. Io praticamente a sera, poi verso 3, quando chiudono loro, che chiudono tutte serrande, io piglio e me va a corco, me ne vado sopra e me va a corco. Capito? Non ho capito la parola che ha usato il professore. Me la? Vado a curco, vado a dormire. Quando praticamente spengono tutte le luci, che butta fuori e butta tutti quanti fuori, io con lui ci facciamo giro. Ormai sono diventato di casa, pigliamo e chiudiamo le porte, tutto qua. È diventato di casa in un bordello, sostanzialmente. Un bordello, Davide, sì, ma questo non mi sembra. Sono diventato di casa, sì. Le ma posso dire, male, ma la cosa interessante, la cosa interessante sarebbe quella che lei ci dicesse: sono diventato di casa nel circolo della cultura, ad esempio. Quello... Ma quale cultura? Cultura fregna, quale altra cultura? Vabbè. Io non ne conosco altre culture. Vabbè. Tu conosci la cultura dopeata, tovaglia di Christian Dior con profilo dorato, tu conosci divane capelliccia, io di pelliccia ne conosco una sola, quando ce l'hanno in mezzo ai cosci, quella conosco la pelliccia. Ma che modo di parlare è questo qua? Ma che dice sto volgare, questo schifoso, sto maiale? Ma Davide, ma tu perché parli così? Io so che tu in fondo sei un maniaco pure tu. Ma qual è il maniaco? Ma che fai scherzo? Tu, dopo la bottiglia di mum, di champagne, sono sicurissimo che tu pure tu vai a troia nel tuo io, ma non lo dico. Assolutamente, ma non è mai accaduto al mondo. Dai, Davide, ma è mai accaduto al mondo, ma si vergogni. Una buona esperienza Ma quale esperienza? Perché non vai? Perché non ti fai trascinare dal karma? Non capisco. Se fosse l'ultima cosa che faccio al mondo, te lo giuro. Ce l'hai un vestito ad aglia mia? Che vestite c'hai? Che vestiti usi? Che usi? No, guardi, io in genere vestito. Metto dei blazer blu, dipende. O magari. Ce l'hai un blazer taglia 50-52 per me? No, io ho un vestito fatto. Cioè, me li fa il sarto, diciamo. Quindi li faccio su. Me li fa il sarto, a lui li fa il sarto. Me li faccio tagliare da un. Ma se ne cosa, ma i mutande pure dei fosato? No, quelli sono dei semplici boxer, che ne so, professore. Quelle normali, boxer. Io spesso vado a 5 euro 3 al mercatino, 5 pure euro, io, Giuseppe, 10 euro 3, 10. Ma sai che faccio, Giuseppe, lavo due porte e poi le butto. Ma io pure, quasi sempre. Siete due schifosi, ma sì, siete due maniaci. Senti, ma non ho capito, Asmodeo dunque è ancora dentro di te, Karma, ancora alberga dentro di te. Ma sai che mi succede ultimamente? Sai che mi sono sognato? Che ti sei praticamente sognato? Mi sono sognato quel signore, quel prete palermitano con la voce Asmodeo. Praticamente mi sono sognato veramente una cosa del genere, sto signore che mi diceva: Karma, lascia ire, lascia perdere, non ci iri più, state in casa, fa tutto. Ma ti giuro, Giuseppe, ti giuro veramente, sta cosa mi ha colpito proprio dentro di me. Sto signore che mi parlava di notte e mi diceva di non andare a Mignotte. Una cosa pazzesca. Io non lo Ma com'è che faceva? Asmodeo! No, diceva, Karma! Carmine, lascia stare, lascia ire, non giri più, lascia ire, non va PT, ti devi essere redentore della vita, una minchiata del genere. Ah, cosa pazzesca. Ma tu non gli hai dato retta? Tu non gli vuoi dare retta, no? No, Giuse, io... Non ce la fai, non ce la fai. Giuse, ti spiego una cosa veloce. Dimmi. No, una cosa veloce. Allora, bisogna capire una cosa. Nella vita c'è chi si cambia macchina spesso, chi sta nei divani di Cristian Dio una capelliccia, c'è chi si beve una bottiglia di mum, ma tu vuoi mettere quando arrivi lì che te si apre la porta... Dito welcome, che paghi, che pago sempre prima, tutto anticipato. Appena apri quella porta che vede tutto Dupilo, vedi tutte le ragazze che ti camminano senza mutande, una cosa pazzesca. Ma questo è un, ma comunque un porco. Una cosa pazzesca, Giuseppe, io me le taglio tutte, me le guardo tutte. Sì, sono maiale e me ne vando, veramente. Ma proprio sono un maiale, ma anche un proprio veramente un maschino. Allora, che roba fai? Schifosa. Le tali tutte, le guardi tutte. Sono come un mastino, Giuseppe, ma tu ha già appena arrivi veramente. Ma poi loro capiscono. Ma se no, fosse dici, un vero mastino, non parleresti di queste cose con questa aria da maiale, vero? Ma sei una porcheria. Allora, sei una porcheria umana, allora, quando senti queste cose. La prossima volta che ci vado, ti registro su WhatsApp. Ogni volta che vado su, ti registro i messaggi. Ma perché? Va bene. Ciao Karma, ciao. Chi c'è ragazzi? Chi c'è? Marco Roma, vai Marco. Un saluto al finto ben educato Parenzo e a te Giuseppe. Dimmi Marco, dimmi. Un tema abbastanza nuovo per voi, credo, il gagging, cioè il sapere. Che è sta cosa nuova? Tenerselo in gola, la donna te lo tiene in gola, dentro, e ci gioca con la gola. Vabbè, amico mio, però adesso non è che possiamo. Cioè, se vogliamo introdurre dei temi sessuali, li introduciamo, non è che c'è bisogno che tu adesso, come dire, fai l'esperto di pratiche sessuali. Dai, su, Marco. Sono uno che pratica. Vabbè, ho capito, sarei uno che pratica, ma chi se ne frega? Guardi, lei intanto, oltre ad essere un maiale, perché di queste cose in genere non si parla, perché è una cosa totalmente inelegante. Ma sei un finto ben educato. Ma quale ben educato? Io non parlo di queste cose. Ma la cosa che dimostra che lei non ha idea minimamente di cosa sia questa pratica dimostra il fatto che lei ne parla. Se uno ne parla, vuol dire che non lo fa, perché è un piccolo maiale, capito? È un modo per dire la ganassata. Ma lei non ha mai, lei in realtà non ha mai praticato nulla. Ti posso mandare dei video su WhatsApp subito, se vuoi. Ma non, ma per carità. No, vabbè, ma chi se ne frega, Marco, dai. No. Edoardo da Roma, vai Edoardo. Ciao bello, come stai? Bene, sì, dimmi. Io volevo soltanto segnalare, quindi, come un deterrente, forse in modo drastico, no? A tutti questi che entrano, di convertirsi al cristianesimo, al cattolicesimo, no? Cioè, non ho capito, scusa. Secondo te un deterrente che cos'è? Quello di convertire tutti i migranti al cristianesimo? Esatto, appena io sulla nave gli presenti la croce, visto noi di croce ce ne abbiamo tanti, cioè ci mettiamo pure quella qua a mezzaluna sopra, capito? Amico mio, tu hai visto troppi film oppure hai bevuto troppo? Cioè, no, sono in un contesto bellissimo, sui monti davanti a me, isolato, non vedo immigrati, non vedo nessuno, un borgo. Vedere i migranti cosa vuol dire? Non vede i migranti? Io non vuole vedere i migranti, evidentemente. Eduardo. Cosa vuol dire? Esatto. Che modo di, cioè, non sopporta gli immigrati. Non sopporta, io sopporto lui. Che... E io, ad esempio, sì, non sopporto lui. Come devo fare? Guarda, è una forma di compatibilità, credo, di punti di vista. Io accetto pure quello che dici tranquillamente, senza nessuna remora. Giusto? Io non ho capito una cosa, Edoardo. Tu che vorresti fare è convertire tutti quelli che arrivano? Ma perfetto. Ma non è possibile. Cioè, non è possibile, però non ti ricordi una volta le regioni, no? Quando c'erano invasioni, eccetera, eccetera, no? Parenzo, che rispondi facevano? Tu, dai. Ecco, no, ma c'è semplicemente la cosa drammatica di questo signore. Sì. Sì, e che ha esordito dicendo sono in un posto dove non ci sono immigrati, che mi pare esatto. Ma se non vuole immigrati in giro, ma saranno affari suoi, ma che o vuol no? dire non vuole immigrati in giro, ma che vuol dire? Ma a lui, quando lui sarà vecchio, chi è che verrà a pulire a soffiargli il naso? Guarda, chi verrà ad apparecchiargli la tavola? Chi spingerà la sua carrozzina, la sua sedia a rotelle? Non esagerare. Faccio per dire sì, quando suo figlio sarà a lavorare a cambiarle il catetere, a cambiare il catetere a lei e Cruciani, sarà lì a Bubba, te lo dico io, e lei ride, ma a Cruciani e a te, a cambiarti il catetere, sarà Ali Abu Baba. Tu sarai seduto sulla poltrona. Dipende dai punti di vista, no? Io penso di no. Penso vabbè, ciao di Edoardo, no. Ciao, grazie. Pare, certo che fai cagà proprio, fai i latte alla ginocchia, quanto cazzo sei brutto all'aria che tiro. Un abbraccio, caro Valenzo, la minoranza silenziosa. Anzi no, a maggioranza silenziosa dei miei coglioni. Un abbraccio di nuovo. La zanzara. E poi ci siamo anche noi. Dopo la maggioranza silenziosa e la minoranza rumorosa, abbiamo deciso di uscire allo scoperto. Siamo l'uguaglianza irrequieta. Manager, liberi professionisti, gente di una cultura spaventosa e dalle grandi capacità economiche, chiamano a mangiare su tavoli imbandite che festeggiano chiusure d'affari nei postriboli di tutta Europa. Siamo quelli che corteggiano, offrono fiumi di champagne, portano fiori e vanno a teatro. Gente che alle 9 cena con Zagrebeschi e alle 11 prosegue con Carmine da Roma. In medium stat veritate. Siamo tantissimi e da oggi ci palesiamo al mondo intero. Paolo? Sì, sono io. Ciao, come stai? La zanzara, Cruciani? Sì, lo so che sei Cruciani. Ti riconosco dall'odore. La zanzara. Cosa sta dicendo quel mostro? State electricity. When you walk in, you set my circuitry. Dopo aver ascoltato attentamente i tuoi consigli, Parenzo, sono stato qua nel negozio di cinesi vicino casa e ho comprato un bel servito di piatti di vetro, caraffe, di cristallo, tutto spettacolare, sottopiatti anche quelli d'argento. Ho speso 15 euro. Finalmente adesso ti posso invitare a mangiare a casa. Sono venuto a sapere, attraverso chiaramente il web, che a Palermo è tornato a dire messa, è tornato ad esercitare la sua attività di prete, un signore che si chiama Don Paolo Turturro, di 67 anni. Ora, a voi il nome non dice ovviamente nulla. Andando a ricercare negli archivi, fate il nome... Scrivete il nome Don Paolo Turturro, 67 anni, condannato per pedofilia, ha scontato la sua pena, 3 anni, 3 anni, 3 anni, pena definitiva, in parte scontata in carcere, dopo in una comunità. Questo signore, io non conosco bene i dettagli, pare che sia stato una cosa, è andata via per prescrizione, la cosa più grave, quella più leggera, che pare sia un bacio, delle toccatine di un bambino, è arrivata invece a condanna definitiva, 3 anni, ripeto. Questo signore non è stato cacciato dalla Chiesa, è rimasto, non è stato sospeso a divinis, come si dice. Torna a fare il suo mestiere, il prete, un condannato definitivo per pedofilia. Allora, Davide, io chiamerei una pensionata di Stanghella, prima del tuo addio quotidiano, una pensionata di Stanghella, con paese vicino Padova, una donna di 74 anni che è rimasta l'unica italiana in un condominio dove abitano solo stranieri e dice che non può vivere. Sì, pronto? Sì, come stai, Angela? Angela, qui Radio 24, come va? Ah, sì, come va? Sono qua come sempre. Ecco, ma com'è la situazione? Ma davvero ti senti, come dire, circondata da immigrati? Sono qui, circondata da loro. Sono qua, ho aperto la porta con una gran puzza. Ah, una gran puzza di cosa? Di cibi che fanno loro, l'ho fatto oggi, ma non va via, ormai i muri sono impregnati dall'odore. Stanotte hanno fatto casino anche stanotte. Cioè non t'hanno fatto dormire praticamente? Non fanno dormire, io devo stare fino a mezzanotte a guardare la televisione perché non posso dormire. E dopo mezzanotte, fino anche alle 3, 3 e un quarto così, e tac, e tira l'acqua e parlano forte. Il mattino dopo apro la porta, una puzza dappertutto, ho detto ma che odore di aglio, i cipolle. Vabbè, ma signora, cucinano voi? Ho capito, ma scusi, quando lei cucina, sono Parenzo, quando lei cucina il baccalà ad esempio, no? Anche il baccalà, anche noi abbiamo i nostri odori, per carità, non dico di no. Sì, ma scusi, ma qual è, scusi un attimo signora, però alla fine il problema qual è? Il cibo, la puzza del cibo, qual è il problema? Quanti ce ne sono nel suo palazzo di sti immigrati? Adesso ce ne ho 3 a fianco a me e 3 di sopra di me, che fanno rumore, fanno rumore continuamente. Loro non hanno orari, alle 6 del mattino loro sono già in piedi. Ma lei riesce a campare o no? Riesce a campare o no? Mi dica la verità. Faccio fatica. Fa fatica. Bisogna capirla questa signora, Parenzo. Bisogna capirla, sì, o no? Bisogna, è evidente che bisogna capirla, ma bisogna aiutarla, bisogna che il comune di Stanghella, mi pare sia Stanghella, bisogna dargli che... Vi spiego. Allora, io a questo punto, quando ho visto questa gente, ho chiamato i vigili, perché sono i vigili dovevano chiamare magari gli assistenti sociali, cioè la politica, la politica deve dare risposte, aiutare, integrare in un territorio che sicuramente non è complesso, perché non si integrano, non si integrano. No, è impossibile. Guardi, tutti andiamo a fare i nostri bisogni fisiologici, ci devono fare la pipì. Dove la fanno questi? Dov'è che cagano, signora? Nell'acqua, mi svegliano anche lì di notte. Vabbè, signora, andranno al cesso. Fanno la pipì di sera, però possono fare la pipì la notte, scusi, No, ma c'è anche modo e modo, no? Vabbè, ho capito, ma se uno va... modo e modo, ma posso fare... Però, signora, se uno va a cagare, adesso, signora, Uno ha bisogno di fare la pipì durante la notte... Ma questa è una cosa, dopo hanno la sedia, e cric, hanno mobili, e cra... Vabbè, ma ho capito, ma anche gli italiani spostano i mobili! Appunto! Comunque, guarda, non si può... Ma no! Signora, ma fa cagano anche fuori? Nel condominio, sulle scale? No, vabbè, cagano a casa. Allora, potranno fare la pipì quando hanno bisogno? Lei si sente assediata? Si sente assediata? Al mattino mi svegliano, fanno rumore, si chiudono il naso, buttano fuori a moco del naso, lo sento di quei rumori fino in camera da letto, vado fuori dai cortili e sputano così come degli animali. Sputano come animali. Ma anche il camionista Karma sputa, ma cosa vuol dire? Dica che dalla sua parte non se ne parla più. Sei dalla sua parte non se ne parli più. Sei dalla sua parte non ne parliamo più. Ma non è vero. Sì, signora, è dalla sua parte, non lo vuole dire. Faccio notare a questa simpatica signora che però a sputare per terra sono anche gli italiani, non è che sono solo gli immigrati. Sì, però viverci assieme è un'altra cosa, dirlo così. Ma infatti, non ci vuole vivere. Però permettetemi, si tratta di costruire un nuovo patto sociale. Ma che patto sociale? Non per niente, sono spariti dopo 2 giorni 2 famiglie, i miei vicini, se ne sono andati. Via tutti, lei è rimasta sola. è assediata dai profughi. Io sono rimasta sola, quindi il piano purtroppo sì. Capito? Purtroppo sì. Arrivederci signora, arrivederci. Buonasera. Sei andata a rompere i coglioni pure a questa signora. Si sente sola davanti in un palazzo dove ci sono 4-5 famiglie solamente di profughi. Sì, vabbè, la puzza. Ma saranno problemi che un'anziana può anche non sopportare? David? Dottore è andato alla 7 perché alla 7 ci sono blocchi di vetro. Radio 24, solo che bottiglie di plastica. Dottore è andato via. Gianni da Torino, vai Gianni. Eccomi qua. Dimmi, dimmi. Buona serata. Sono uno di quelli, come sono, rincoglioniti, che stanno dalla parte che vogliono far vivere Charlie. No, no, io non ho detto che sono rincoglioniti quelli là. No, attenzione. Vari. Ah, l'ascoltatore di prima, sì, l'ascoltatore di prima. Quello pseudo filosofo, eccetera, eccetera. No, no, lo pseudo filosofo non ha parlato di Charlie, penso che lo voglia fare, anzi, vivere no, come. No, no, quello che c'era prima. Che sì, sì, allora. Circa una mezz'ora fa più. Comunque il discorso è questo: sto ragazzino, sto bambino, sto piccolino, c'ha 10 mesi, vogliamo ancora dargli qualche mese di possibilità per vedere se è morto. È praticamente morto, Gianni. Ma no, è morto un cazzo. No, ma che dici? È vivo. Ma ho capito, se uno stacca la spina muore, è irrecuperabile, è irreversibile. Non siamo in Africa dove ma perché i deve soffrire? Ma perché deve perché lo siamo volete far soffrire? Ma perché lo volete far soffrire? Ma che soffrire? Ma magari soffre, che ne sai? Ma che ne sai? Sta soffrendo. Che ne sai? Di. Senti un po' figlio, allora io sono 24 anni che ho mio figlio che seguo e che giro casa e ospedali, quindi ti posso dire che è una vita. Ma in che situazione è? Scusami tuo figlio, in che situazione è? È una situazione che adesso c'ha 24 anni, è attaccato con la PEG, c'ha la tracheo, di notte ha bisogno dell'ossigeno. Ma non è la stessa cosa però, non è la stessa cosa. Quando è partito lui non aveva molte possibilità, me l'avevano date e via via. Però ragazzi bisogna distinguere, non sono le stesse situazioni. Ma certo che non sono le stesse situazioni. Secondo tutti i medici e secondo anche... Ma non i medici, no. Vabbè, guarda che in medicina, in scienza, in neurologia, di certo non c'è nulla. Non c'è mai nulla. Ma allora, se tu sei più esperto di quelli che dicono, che è giusto staccare la spina a quel ragazzino, a quel bambino, a quel neonato per non farlo soffrire, perché tanto non c'è alcuna speranza. Se pensate di essere più bravi in nome della vita, in nome del fatto che certamente fa tenerezza quel volto, quel piccolo peso, quel batuffolino, certamente è così. Ma se voi volete mettervi davanti ai medici, eccetera, eccetera, ma fate pure. Ma che ne sapete? Che ne sai che non soffre? Che ne sai? Che ne sai? Ma, che non... ma chi lo sa che quel bambino invece non vuole tirarsi su? Ma chi lo di chi, come si fa a vabbè sapere che cosa sarà tra un Gianni anno o tra due o tra ti saluto, cinque? Ti saluto, ciao. O ciao, tra dieci. Ciao, ciao Gianni. Ciao. Va bene, vaffanculo. Signora del Santo, sa che cos'è lo squinting? Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. Cos'è lo squirt? Quel ballo dove muovi il sedere. Cruciale, dimmi cos'è sprint. Quel ballo dove muovi il sedere. Perché? Ho sbagliato? Quello che ti muovi tipo convulsamente. Convulsamente. Quel ballo dove muovi il sedere. Sì. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Nilox.com, dove la tecnologia diventa sport. La Zanzara. Parenzo! Beppe, lo so, si avvicina il momento. Il momento nel quale voi andrete in vacanza, vi farete quel cazzo di mese e mezzo come minimo e noi qui a soffrire. Però non lo dite, vi prego non ditelo, non dite quando avverrà, perché se lo dite già mo entro in ansia. Ogni volta mi sembrerà una puntata, una in meno prima della pausa. Non lo dite, fatelo così all'improvviso, come quando uno ti vuole lasciare. Se lo annunci è terribile. È meglio che esca dalla porta, dice vado a prendere le sigarette e basta, esci dalla tua vita. fate così anche voi, vi prego, non dite nulla. Brunetta Show questa mattina ad Agorà, contro la Rai, contro i giornalisti che sostituiscono gli altri, incredibili, sentite. Il fannullone oppure Fantozzi è quello che si adatta alla destra, se di destra, a sinistra, a sinistra, mi faccia dire una cattiveria, come succede in Rai. No, quando sì, ma lo dico perché è così, ma perché è così, ma perché è così, è una cattiveria, perché tutte le cattiverie. Io faccio professore ordinario di economia all'università, non ho mai avuto problemi in vita mia, la mia carriera l'ho già fatta e la farò. Senti. Quindi non è il mio problema, si deve preoccupare invece qualche conduttore in Rai eccetera eccetera, che di stagione in stagione vengono spiazzati da una parte all'altra e sono poco liberi poi alla fine. La precarietà. Non si preoccupi, che Rai siamo tutti liberi. Questo è notorio. Questo è notorio. La Rai la conosco. La Rai la conosco anch'io. Ma come no? La Rai, io sono membro della commissione di vigilanza della Rai. Sono un parlamentare e sono un vigilante della Rai. Quindi io parlo della Rai anche per ragioni istituzionali. Quindi conosco la Rai. Anni per cui la conosco molto bene. E io faccio il parlamentare e faccio il parlamentare della vigilanza Rai e controllo la libertà. Ne siamo fieri che qualcuno ci controlli. L'alleanza si fa tra diversi, non si fa all'interno di Forza Italia. Io riportavo le parole del suo leader, però. Ma le Forza Italia Forza Italia è dentro il PPE. L'alleanza si fa con la Lega, sì, che non è mai stata dentro il PPE, forse lei non lo sa, ma forse la Lega non è mai stata dentro. E Brunetta, anche lei, però si dice delle cose sbagliate. Forse lei non lo sa. Lo so bene, non si preoccupi. Benissimo. Si tranquillizzi lei. Ma io sono tranquillissima. E si informi. Guardi, è lei che, io sono informi. Anche informatissima, e è lei che, va diciamo, bene. Così è un po'. È un po' deviante. Va bene, sono deviante. Sì. Va bene, allora. Come la rete deviante. La conduttrice Mega Galattica, auguri. Auguri a questa rete meravigliosa e estremamente di sinistra, che non rappresenta l'Italia. È stato un piacere anche stare con lei. Io rappresento soltanto il servizio pubblico. Sì, sì. Servizio pubblico deviato. Gianluca Santoro. Servizio pubblico deviato. È favore. Siete servizio pubblico, non dovete essere di parte. Non dovete essere di parte. Professoressa, non dovete essere di parte. Faccia, non è un bello spettacolo. Non è un bello spettacolo, lo dico io. Auguri. Fantozzi o torniamo. Villaggio, chi per lui? Torniamo a Fantozzi. Grazie, auguri, arrivederci. Brunetta, nano di Venezia, non romperci i coglioni. Allora, Arturo dalla provincia di Massa, vai Arturo. Beppe. Aspetta che ti sento male, vai dimmi. Beppe, mi senti? Non bene, però non mettere più la voce, dai. No, l'ho tolto. Sì, vai, dimmi tutto. No, ti dico... Ma questa ipocrisia, queste falsità, quando muore un personaggio, no? Un personaggio importante, mai cade, solo uno, il grande Fontanelli che disse... Chi? Fontanelli? Montanelli? Montanelli, scusa. Fontanelli. Che disse, quando uno è uno stronzo in vita e muore uno stronzo anche da morto. Qua, ora non mi riferisco a Paolo Villaggio, per l'amor di Dio. Che e allora? A chi ti riferisci? Cioè, in generale... Ah, vabbè, ma che c'entra allora, scusa? Ma come che c'entra? La televisione, le cose, qua e là, è tutto. Mai dire che era un personaggio. Vabbè, spesso aveva... durante quando uno muore, non si parla mai male delle persone che muoiono, dai. Ma non è che si debba parlare male. No, ma io sono d'accordo con te, infatti non dico nulla. Cioè, capito, Beppe? Poi di problemi importanti come questo ragazzino, io eviterei perfino, non ho sentito di Cotto e di Crude, ma come si fa a decidere, a dire delle opinioni, cioè è troppo un argomento... Vabbè, allora poi? Allora poi mi volevo riferire alla Verginona che non credevi che a 44 anni ci fosse sì, una sì, sì. Praticamente io ho una novantenne, è un'altra generazione che ti posso che cosa hai, scusami, non ho capito. Una novantenne familiare, famiglia, che è vergine. E che rapporto ha con te? Chi è? Una nonna, una zia? Chi è? È una zia, sì. Cioè tu hai nella tua famiglia c'è una zia vergine di quanti anni? 92? 95, sì. 95 anni, non ha mai fatto nulla in vita sua? No. Ma è ancora lucida? Lucidissima. E perché non me la passi? Sì, ma sei pazzo. Questa luce mi spacca il telefono sulla testa. No, come ti spacca il telefono? Dammi il numero, dammi il numero di telefono subito. Non voleva che glielo che te lo dicessi, ma ha fatto un casino. Ma... No, ma chiamala, dai, ci divertiamo come matti. Ma stai scherzando? Dammi il numero di telefono, ci divertiamo come matti. E allora non stasera, perché non l'ho qui a casa. Ma come, non c'è il telefono di tua zia? Scusa, non ho capito. No, a 95 anni il telefono ha bisogno che glielo faccia portare e che tu intervenga. Ma non ce l'avrà un telefono a casa tua zia o no? No, c'è un cellulare sta donna, no. Dammi sto numero, dai, che ci divertiamo insieme. Chiamala tu, dammi il numero di telefono. No, non ce l'ho, Beppe. Ma come non c'hai il numero di tua zia? Dai, ci divertiamo, zia vergine di 95 anni, 95. Ma sì, ma non credimi, ti posso richiamare e darti il numero domani sera, magari. No, ma che domani sera? Le cose vanno fatte subito, calde. Voglio capire innanzitutto se è vero, se non mi stai prendendo per il culo. No, non ti prendo. Esistono nei 95 anni, esisto. Io avevo una zia. È un'altra generazione. È chiaro, Arturo, quando io abitavo in quella famosa casa al centro di Roma, disabitata, di 500 metri quadrati, eccetera, su cui Parenzo mi piglia per il culo, in realtà c'era una zia per un tot di anni. C'era una zia che era la zia di mia madre, cioè la sorella di mio nonno, che era il padre di mia madre, secondo me violinista assolutamente vergine, mai preso un cazzo in vita sua, nulla, morta a 90 anni circa, eccetera, morta nel suo letto, e ha vissuto tutta una vita da sola, eccetera, mai preso un uccello in vita sua, secondo me, mai. Ma vedi che allora mi confermi. Ma sì, poteva accadere, tanti anni fa poteva, oggi è più complicata, 44 anni oggi mi ha colpito abbastanza. Arturo, però adesso tu dammi questo numero della zia, dai. Ti giuro, non te lo posso fare, non l'ho qui, sono arrivato a casa, lei è dall'altra zia a casa, non so nemmeno quale sia. Ma c'è ma scusa, risponde al cellulare a 95 anni? Risponde. Risponde? Risponde. Ma non ti guarda, Beppe, sono... Vabbè. Adesso appena abbassi il telefono ti faccio subito contattare dei miei, mi dai il numero, Ciao Arturo, senti, ciao. Ma al discrasico, che la passera gli piace, al discrasico che è accanto. È andato alla sette adesso. Ah. Andata la sera. Ciao, ti abbraccio. Ciao. Sì, comunque gli piace la passera, gli piace la fine. Sì, sì. Ciao. Che non sembrerebbe. Ciao, a voglia. Ciao. Allora, ragazzi, nei giorni scorsi il segretario generale della CISL, il segretario generale del sindacato, ha detto che raccoglierà le firme per punire i clienti delle prostitute, una cosa totalmente illiberale. Ci vuole impedire di andare a puttane. Il segretario di un sindacato italiano, poi che cazzo vuole il sindacato italiano sulle mignotte? Toglie lavoro alle prostitute? Perché deve togliere lavoro alle prostitute? La signora Furlan, detto con tutto il rispetto. Noi però abbiamo fatto chiamare un iscritto, un vero iscritto alla CISL, un po' puttaniere, incazzato alle sedi della CISL, con un effetto un po' curioso, sentite. Pronto CISL? Sì, buongiorno, sono Colombo, sono iscritto, sono sindacalista, come vuoi. Senta, io sono incazzato nero, ma cos'è sta grande minchiata della Furlan? Non c'è lavoro, siamo nella merda fino al collo, e cosa fa la Furlan? Ci penalizza noi, quelle che andiamo a puttane. Sarà impazzita. Cioè, ci vogliono togliere anche il piacere di andare a mignotte. Ognuno sa cosa vuole, si vede che si alza al mattino, qualcuno ogni tanto dice le sue. Ma se a dirlo è la segretaria, cioè dovrebbe rappresentare tutti noi. Ce n'è di gente che dovrebbe rappresentare tutti noi, ma che fanno un cazzo. Il nostro amico Trinchetto, che è quel deficiente là, il siciliano. Là, che sì, Crocetta. Crocetta, bravo, Crocetta, fine quello. Però chissà perché è sempre lì. Sta sulle palle Crocetta, dì la verità. Non mica eliminarlo quello lì. Lei lo eliminerebbe? Subito, domani mattina, anzi adesso, fra 3 secondi, che sa, la questione, come diceva lei, lì le puttane o no puttane, io farei come dice Salvini, l'ho detto tante volte Salvini. Non toglieteci le mignotte, viva le puttane. Quelle ci devono rimanere, sono, siamo stati i primi noi al mondo con l'impero romano bravo, siamo stati noi che abbiamo portato la civiltà nel mondo, no? Bravo, bisogna dirlo anche alla Furlan, viva le puttane, lo dica con me, viva le puttane, messi in regola. Adesso quando viene la Foroni qui in sede viene a parlare un attimo. Assolutamente. Pensionati civili. Ah, pensionati? Non è la sede? Sì. Senta, ma cos'è sta minchiata della Furlan? Raccogliere firme per punire i clienti delle prostitute. Guardi che io straccio la tessera. Madonna, che roba di... Cioè, andiamo... No, sono d'accordo con lei. La Cisa è diventata peggio della Chiesa. Ma stiamo scherzando? Guarda, roba da matti. Guarda, no. Cioè, mi viene da dire, fanculo al sindacato. Adesso telefono il mio segretario, glielo dico. Insomma, volevo protestare perché io senza mignotte non ci resto, va bene? Ma sta scherzando? Ha fatto bene. Arrivederci. Salve, salve. Beh, come avete capito, cari amici... Nel sindacato questa cosa della Furlan non è molto apprezzata. Avete sentito anche il linguaggio forbito da parte dei sindacalisti della CISL? Giustamente, gente di popolo, gente vera, gente sanguigna, che va a puttane, gente che vuole protestare. Il caro segretario della CISL, signora Furlan, dovrebbe sentire questi signori qua, i quali se ne fottono di punire i clienti delle prostitute, perché anch'essi vanno a puttane. Anche loro frequentano. Anche loro, e sono dalla parte della gente vera che ha bisogno di andare a prostitute. Dunque non faccia la battaglia filosofica contro i clienti, firmare, bloccare, innanzitutto perché distrugge il lavoro. Lo sai che, no, mi rivolgevo a Parenzo che non c'è più, mi hanno regalato questo cazzo di trono, mi hanno dato questo trono, i signori gemelli di Milano, un trono, adesso mi faranno un trono, il trono del conduttore della Zanzara. Dove andiamo? Paolo da Roma, vai. Buonasera, ciao. Dimmi Paolo, dimmi. Allora, volevo dire una cosa su quel povero Charlie, che sono perfettamente d'accordo con quello che dicevi tu e anche Parenzo, perché c'è un diritto che qualcuno deve far valere, cioè il diritto di questo bimbo ad avere una morte dignitosa e non soffrire. Si mette in contrapposizione da molti con le aspettative e il dolore dei genitori, ma io credo che i genitori ne abbiano solo dei doveri, purtroppo, in questo momento, quello di informarsi e capire bene. Cioè non è che sia una cosa... No, un computer, un divano con cui loro possono fare quello che vogliono. Purtroppo questo bambino non ha nessuna possibilità, secondo tutti gli esperti, di sopravvivere, e in più soffre in ogni... Ma poi se vogliono che continui a vivere, diciamo a vivere, a restare in quello stato lì, lo facessero, raccogliessero dei fondi come stanno facendo e pagassero loro tutto quanto e nessuno... Però guarda, da un punto di vista morale non è neanche giusto questo, perché quel bimbo sta soffrendo e qualcuno, la civiltà, deve far valere il diritto ad avere una morte dignitosa di questo bimbo. Vabbè, i genitori purtroppo... Non sono in grado di decidere, perché probabilmente è troppo doloroso accettare questa cosa da parte loro. Però ecco, ci tengo a dire che i genitori, non è che questa è una cosa loro che possono decidere loro quello che vogliono. Beh, diciamo, loro è il figlio, cioè, da un certo punto di vista. Capito, ma non è che tu puoi, per esempio, uccidere tuo figlio, no? Dice mio figlio, no, tu puoi rompere il tuo divano, ma non puoi torturare tuo figlio. Con tutto il rispetto. Cioè, tu dici una genitori. Tortura, essendo una tortura, deve essere impedita la tortura di un neonato. Ma certo, purtroppo in certe, con tutto il rispetto per i genitori. L'altra cosa sugli ombrellini, permetti di dire questo, ma anche questo. Sì, dai, veloce. Sì, no, è una grande ipocrisia. Cioè, oggi il 99%, diciamo 95% per essere precisi, le donne di polizia sono donne. Cioè, nessuno dice niente. Che significa? Tra l'altro, le donne di polizia sono pagate. Queste ragazze sono andate lì senza essere pagate. Casomai prendiamo. Ma sono delle volontarie, ragazze. Non rompete i coglioni. Sarà pure un'immagine strana, eccetera, che si vede magari nell'Indonesia negli anni 70. Ma ho capito, ma qualcuno ha chiesto a queste qua: ci potete dare una mano con queste, con gli ombrelli perché sta piovendo? Punto e basta. Invece il sessismo, il macismo, il presidente della Camera. Tutte rotture di coglioni. A domani, ciao. Culo niente. Ma come culo niente? Culo niente. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.